tanti giorni che ha lasciato il segno, e stare al mondo già di più un impegno, e adesso giri con in tasca un pugno, nell'altra tasca il tuo rimario. L'impatto con il mondo è sempre forte, per chi vorrebbe solo farne parte, e avere almeno due o tre cose certe, e avere un Dio che si diverte. Scegli tu fra botte e rime, e scegli tu fra inizio e fine, e scegli tu, ma scegli tu per primo, e quando canterai la tua canzone, la canterai con tutto il tuo volume, lasciando qualcun altro a commentare che tu devi andare. Sono stati giorni di tempesta e vento, ed era pronto solo chi era pronto, ma adesso sai a cosa vai incontro, chi non è morto è già più forte. L'impatto con il mondo è sempre duro, per chi lo vede come un posto scuro, vorrei poterti essere utile davvero, poterti dire che sei al sicuro. Scegli tu fra botte e rime, e scegli tu fra inizio e fine, e scegli